Mezzanotte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Whenever I wear a tie from Italy, made in Italy, my wife seems to love me more and better. Last month in New York City was in a terrible traffic jam because of one small Italian car, the Fiat 500, the Papa Mobile. Un'ennesima dimostrazione, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, di quanto piaccia il Made in Italy nel mondo. Addirittura qui era Ban Ki-moon, segretario generale dell'ONU, che oggi alla Camera italiana, Camera dei Deputati, ha detto quello che avete sentito. È praticamente, ha detto, quando metto una cravatta italiana sembra che mia moglie mi ami di più e anche meglio. E poi ha detto, lo scorso mese ero nel traffico, terribile traffico di New York, e ho scorto questa auto italiana, la 500, avete sentito, l'ha pronunciato 500, che è l'auto del Papa, la Papa Mobile. E quindi, insomma, non so se, diciamo, un'espressione un modo ruffiano, no? Quando si viene in Italia per forza bisogna esaltare il Made in Italy, però diciamo abbiamo le nostre qualità naturalmente. Questo tanto per iniziare la puntata di Effetto Notte questa sera, in un modo un po' particolare come sempre, ma parleremo, poi andremo su questioni molto concrete, perché parleremo questa sera molto diffusamente della legge di stabilità che è stata varata oggi dal governo. Ci sono varie novità, tra cui l'annullamento, insomma, delle tasse sulla casa, una cosa a cui Renzi stava molto a cuore, molto criticata per altri versi, e poi questa storia della bolletta, del canone Rai nella bolletta elettrica, anche questa piuttosto controversa, perché molti si sono chiesti, insomma, come si farà, e poi la pagano tutti, anche quelli che non hanno il televisore, quelli che non hanno neanche un apparecchio qualsiasi per vedere i programmi, quali problemi tecnici ci potranno essere per inserirla nella bolletta. Ne parleremo diffusamente, quindi non lasciate per nessuna ragione questa sera Effetto Notte, come sempre ovviamente per qualsiasi puntata. E poi vi lancio anche un argomento extra, che è questa proposta di Salvini, leader della Lega, che oggi era presente alla protesta della polizia a Roma, e ha proposto di ritornare alla leva obbligatoria, cioè al servizio militare obbligatorio, dice, per insegnare l'onore ai giovani. Vi trovate d'accordo con questa proposta? Sareste d'accordo a un ritorno della leva obbligatoria? Esprimete con libertà le vostre opinioni sia sulla pagina Facebook di Effetto Notte, che è sempre lì, ringrazio tutti quelli che aderiscono senza indugio, con entusiasmo, e poi anche potete inviare gli sms al 349-238-6666, 349-238-6666 per il messaggio, oppure la pagina Facebook di Effetto Notte per rispondere a questa domanda. Sareste favorevoli a un ritorno della leva obbligatoria, come suggerisce il leader della Lega, Salvini? Bene, adesso vi racconto in sintesi come sempre la giornata, e poi piano piano snoccioliamo tutti gli argomenti con gli ospiti. La legge di stabilità, il governo vara la manovra da 27 miliardi, via le tasse sulla prima casa, canone TV di 100 euro nella bolletta elettrica. Unioni civili, la ministra Boschi annuncia, slittano a gennaio. Maltempo, nubifragi e frane al sud, complessivamente 5 vittime in 24 ore. Il vertice a Bruxelles, Europa affronta il nodo migranti, e il segretario generale dell'ONU Ban Ki-moon ringrazia l'Italia per la risposta coraggiosa all'emergenza immigrazione. Afghanistan, dietro fronte di Obama che rallenta il ritiro delle truppe americane, resteranno 5.500 soldati. Scandalo Volkswagen, indagati a Verona, i vertici italiani perquisite le sedi. Tragedia a Milano, uno studente di 17 anni precipita dall'hotel in gita e muore, forse un malore, conferma a Radio 24 il PM. Turchia, la Farnesina conferma il fermo di una minorenne italiana. Qualità di vita e longevità, New York, i ricchi vivono 11 anni in più dei poveri, mi sembrava un po' esagerato, naturalmente lo rivela una ricerca, di questo anche parleremo. E poi il calcio, sciopero della Serie A femminile, salta la prima giornata, il sindacato spiega è mancato il riscontro a quanto richiesto e concordato, e poi la UEFA che chiede per Platini un processo equo e rapido. I numeri della legge di stabilità mi danno un pochino alla testa, parliamo quindi del varo della manovra. Tornano le slides e tornano i tweet a Palazzo Chigi per illustrare la seconda manovra del governo Renzi. Per il premier una legge di stabilità, ma si pronuncia legge di fiducia con il tanto promesso taglio delle tasse, in primis quella sulla prima casa. Così Renzi. Via le tasse sulla prima casa, dopo gli 80 euro e l'IRAP un altro segno di fiducia per gli italiani. Italia col segno più. A chi gli contesta l'assenza della spending review, Renzi risponde che ci sarà anche se scende a 5 miliardi dei 10 promessi. Le opposizioni però bocciano la manovra. Renato Brunetta di Forza Italia. Ha fatto una televendita meglio di Vanna Marchi. Ha dato tutto a tutti, non ha dato una sola indicazione di copertura. Questo è un atteggiamento irresponsabile e spudorato. Carla Ruocco del Movimento 5 Stelle. Padoan non ha trovato i soldi per coprire le sterili sparate propagandistiche di Renzi. È sparito il taglio delle tasse per le imprese ed è sparito il testo della manovra. Cosa porterà Renzi in Europa? Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Ne parleremo dopo nel dettaglio di legge di stabilità. In ogni caso è arrivato anche il commento del presidente di Confindustria, Giorgio Squinzi, sulla legge di stabilità. Ha detto: ci sono elementi positivi che corrispondono al massimo che si possa fare nell'attuale situazione di disponibilità, anche sulla base, ha detto, di una spending review che è un po' inferiore alle previsioni. Inoltre, precisa Squinzi, alcune nostre richieste sono state accolte, come gli ammortamenti al 140% per i nuovi investimenti. E vi ricordo anche che domani c'è uno speciale di molte pagine sul Sole 24 Ore relativo alla legge di stabilità. Il presidente del Consiglio Renzi, dopo il Consiglio dei Ministri che appunto ha varato la legge di stabilità, è volato a Bruxelles, dove si era già accennato anche alla manovra italiana. E Bruxelles è iniziato infatti a Bruxelles un vertice che durerà 2 giorni, diversi temi, senza dubbio poi al centro c'è quello dell'immigrazione, ma poi per capire i temi e capire anche come sta partendo questo vertice ci collegheremo direttamente con il nostro inviato a Bruxelles. E poi c'è il maltempo con un bilancio molto pesante al centro e al sud. 5 morti, allagamenti, frane, smottamenti è il bilancio della nuova ondata di maltempo che nelle ultime ore ha colpito il centro-sud. La situazione più critica nel Beneventano, dove è straripato il fiume Calore. A Montesarchio un 70enne è morto per un malore mentre sparava fango nel suo deposito che si era allagato a causa delle forti piogge, mentre una donna, anche lei 70enne, è rimasta travolta dall'acqua a pochi metri dal suo casolare a Pago Vegliano. Decine le famiglie salvate perché hanno trovato rifugio sui tetti. Il sindaco di Benevento, Fausto Pepe. Un paese totalmente smantellato. Mai visto una cosa del genere in tanti anni. Viabilità ormai inesistente, si è portato via tutto, acquedotti, fognature, è saltato tutto. In Campania, disagi anche in provincia di Salerno, nella Velinese e nel Casertano, apprensione per il fiume Volturno. Italo Giulivo della sala operativa della Protezione Civile. Abbiamo già avvisato tutti i comuni rivieraschi dell'arrivo dell'ondata di piena che secondo gli scenari del momento dovrebbe essere contenuta negli argini. Ingenti danni in Lazio e Abruzzo dopo i temporali di ieri che hanno provocato 3 vittime nel Frusinate, a Tagliacozzo, in provincia dell'Aquila. Disagi per la circolazione in Puglia, nelle zone di Foggia e Nocera, in Sicilia. Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E poi c'è da anche segnalare, a proposito di Pompei, che cade sempre più a pezzi, infiltrazioni d'acqua causate dal maltempo hanno danneggiato il mosaico del pavimento della Domus di Giulio Polibio negli scavi archeologici di Pompei. La casa, che si affaccia sul decumano inferiore di Via dell'Abbondanza, è chiusa al pubblico e sono in corso interventi di verifica e ripristino da parte della soprintendenza. Spostiamoci all'estero con questo dietrofront di Obama sull'Afghanistan. Ha detto che 5.500 soldati resteranno anche dopo il 2016, più truppe del previsto lascerà in Afghanistan. Il presidente dice: non diventi infatti un rifugio di terroristi, le forze locali sono ancora troppo deboli, la sicurezza è fragile. E dalla Turchia arriva questa notizia confermata dalla Farnesina, che una minorenne italiana è in stato di fermo nel sud della Turchia. E informa la Farnesina che il consolato italiano a Smirne è in stretto contatto con la minore, con la sua famiglia e con le autorità locali. Si tratta di una ragazza con passaporto italiano ma residente in Francia, che è stata fermata 2 settimane fa dalla polizia ad Adana, che è la zona usata dai foreign fighters per raggiungere l'ISIS, cioè dai combattenti che arrivano dai vari paesi per raggiungere l'ISIS. Siamo allo scandalo Volkswagen. Perquisizioni della Guardia di Finanza a Verona, sono stati indagati presidente e amministratore delegato. Hanno cercato documenti per ore gli uomini delle Fiamme Gialle nella sede di Volkswagen Italia a Verona e della controllante Lamborghini a Bologna. A far scattare le perquisizioni la Procura Veneta, che ha aperto un fascicolo per frode in commercio dopo l'esposto di un'associazione di consumatori. 6 gli indagati, tra questi l'amministratore delegato Nordio e il presidente De Meo. Un atto dovuto, spiega il procuratore Schinaia. Continueremo a collaborare, fanno sapere le due società. Anche a Torino, ricordiamo, c'è un'indagine in corso. In Italia 650.000 veicoli sono coinvolti nel Dieselgate. Da gennaio partiranno i richiami, in tutto 8,5 milioni di auto in Europa. Un annuncio che è arrivato dalla casa madre dopo l'ultimatum delle autorità tedesche. In Deutschland circa 2,4 In Germania i ritiri saranno 2,4 milioni, dice il ministro dei trasporti, e sarà Volkswagen a contattare i clienti e non viceversa, come volevano da Wolfsburg. Livia Zancanera, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E c'è stata una tragedia a Milano che ricorda molto quella che era già avvenuta nel maggio scorso con il 19enne caduto da un albergo, Domenico Mauro Antoni. È successo anche stanotte che uno studente liceale è morto in gita ad Expo cadendo dalla finestra dell'albergo. L'ipotesi del sostituto procuratore Piero Basilone è quella di un malore. L'ho intervistato Alberto Battaglia. È certo che loro ieri hanno assunto non so se si possono definire importanti dosi di marijuana. Comunque hanno certamente fumato, si sono divertiti, hanno bevuto, sono andati poi a letto sul tardi e penso che abbia aperto la finestra, perché l'avevano chiusa certamente, si sia sporto e lì è probabile che abbia avuto un malore, abbia perso i sensi. Non penso a un suicidio, perché in realtà non è un ragazzo che aveva dei problemi di natura personale o fosse insicuro, fu introverso, era un bel ragazzo, uno sportivo, molto sicuro di sé tra l'altro. Io penso che abbia avuto un malore per quello che aveva assunto, e che avesse assunto stupefacenti l'hanno detto in tanti, però quando l'ho guardato dall'alto, in effetti io vedevo dall'alto come prospettiva sotto di me il muro divisorio su cui lui è caduto. È una traiettoria assolutamente plausibile. E da Milano passiamo a Roma, invece alle prese con disagi pesanti nei trasporti. È stata un'altra mattinata di caos, quella vissuta oggi dagli utenti della metro A di Roma. La linea è rimasta bloccata per ore a causa di un nuovo incidente provocato da un treno che in manovra ha deragliato urtando un muretto. A bordo c'erano solo il macchinista e un operaio, entrambi rimasti illesi. A causa dell'incidente però altri convogli sono rimasti fermi in galleria e alcuni passeggeri sono stati costretti ad uscire a piedi camminando lungo i binari. Scene documentate anche con alcuni video ripresi con i loro telefonini. In uno di questi, pubblicato su Twitter, si vedono alcuni passeggeri che nel tunnel, quasi al buio, incrociano quello che sembra un addetto della metro. State scendendo? Sì, ti ha fatto scendere il conducente. Allora, proseguite dritti. Okay. Questo marciapiede però è troppo stretto. Attenzione qui. Per la metro di Roma è l'ennesimo incidente a pochi giorni dall'inizio del giubileo. Mi viene da piangere il commento sconsolato dell'assessore ai trasporti dimissionario Esposito, che invita ad azzerare i vertici dell'ATAC e a mettere tutto in mano ad un commissario straordinario. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E mentre ci avviciniamo alla chiusura, questa ricerca molto particolare che arriva da New York, colpiscono molto i risultati di questa ricerca, perché è stata fatta dall'autorità della Grande Mela, secondo la quale gli abitanti di alcuni quartieri più poveri di Brooklyn possono vivere fino a 11 anni in meno di quelli che abitano nei quartieri più ricchi di Manhattan. Quindi cercheremo di capire quali sono i criteri e le principali ragioni di questa disparità. In buona parte si può già comprendere, però poi con un esperto cercheremo di analizzare la situazione. E quindi un'ulteriore conferma, insomma, di come le disuguaglianze provochino poi ulteriori disuguaglianze e disparità anche per esempio appunto nella longevità, nella lunghezza della vita. Per chiudere, il calcio: sciopero della Serie A femminile salta la prima giornata, che dovrebbe essere sabato. Il sindacato spiega mancato riscontro a quanto chiesto e concordato. Poi ne parleremo con la rappresentante delle calciatrici del sindacato. E poi un'altra notizia di calcio riguarda la sorte di Platini. L'UEFA non tradisce Michel Platini, per il quale chiede un processo equo e rapido, così dice il comunicato dell'UEFA diffuso al termine dell'esecutivo a Nyon. Sosteniamo il diritto di Michel Platini ad avere un processo equo e un giudice imparziale per poter dimostrare la sua innocenza, scrive l'UEFA. Vi ricordo che Platini è coinvolto nell'inchiesta per corruzione e pratiche fraudolente, insomma, con il numero uno del calcio mondiale, Blatter. prima di lasciarci brevemente per aggiornare chi sta viaggiando, volevo leggere alcuni dei vostri molti messaggi che stanno arrivando tra la pagina Facebook di Effetto Notte e gli sms al 349-238-6666 sulla leva obbligatoria riproposta da Salvini. Siete favorevoli o no? Molti sono favorevoli. Mario dice, anzi Fabio dice, Salvini dalla Padania al nazionalismo militarista. Lui ovviamente non è favorevole, mi pare. Poi Emanuele da Vicenza, sì, ho due figli maschi e la leva farebbe bene soprattutto per vivere fuori dalla famiglia. Un altro scrive, Salvini va a morire ammazzato, insomma negativo. Ciro, assolutamente favorevole alla leva obbligatoria, bravo Salvini, domani tutti a Pisa. Marco da Cividale del Friuli, sono favorevole alla leva obbligatoria. Max dice, ci basta vedere il senso dell'onore di chi la leva l'ha fatta, i governanti delle ultime generazioni, per cassare la proposta senza appello. A dopo. Smau ti aspetta a Milano, 21-23 ottobre, Fiera Milano City, smau.it. Vi presenta... Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E quindi proseguo prima di cominciare col primo argomento e ricordarvi le notizie più importanti della giornata, visto che non tutti accendono puntualmente su Effetto Note Radio 24 alle 21. Ancora alcuni messaggi a proposito della proposta del leader della Lega Salvini di riproporre insomma la leva obbligatoria. Raffaele dice, ho un figlio di 3 anni e la sola idea di mandarlo al militare mi fa orrore, non esiste un solo paese civile abbastanza popolato che abbia la leva obbligatoria, Salvini straparla solo per raccattare i voti al bar dello sport. Poi invece un ascoltatore o ascoltatrice, no, è Sergio da Milano, ecco, dice, sì, sono pienamente favorevole al ritorno della leva obbligatoria, la leva obbligatoria aiuta senz'altro a maturare e a diventare uomini, non solo, la leva in alcuni casi ti aiuta a uscire anche con un mestiere. Voi continuate con le vostre riflessioni sia sulla pagina Facebook di Effetto Notte sia con gli sms al 349-238-6666. Ritorniamo sui titoli principali e poi cominciamo a capire qualcosa di più della legge di stabilità. Questo naturalmente il primo tema, il primo titolo, via le tasse sulla prima casa, il governo vara la manovra, Renzi dice niente trucchi e lo slogan è l'Italia con un segno in più. Il maltempo non dà tregua, altri 2 morti nel Beneventano, complessivamente nelle ultime 24 ore sono 5 le vittime, in salvo tante persone sui tetti, interviene l'esercito, disagi al centro-sud. L'Europa affronta il nodo migranti in questi 2 giorni di vertice europeo, uno studente in gita muore a Milano caduto da una finestra di un hotel, per il PM è un incidente. 5 mesi fa, vi ricordate, a maggio una tragedia analoga. E poi deraglia un vagone della metro a Roma, passeggeri a piedi in galleria, tanto per cambiare, problemi dei trasporti a Roma. E poi dietro fronte di Obama sull'Afghanistan, 5.500 soldati rimarranno anche dopo il 2016. Scandalo Volkswagen, indagati a Verona i vertici italiani, perquisite le sedi. E poi c'è anche questa notizia, vaccinazione a scuola, un'ordinanza per rendere obbligatorie. Già questa notizia ve l'avevo data in parte ieri, potrebbe diventare obbligatorio avere tutte le vaccinazioni in regola per poter accedere alla scuola, entrare a scuola. Quindi addentriamoci nella legge di stabilità che è stata per il 2016, che è stata varata oggi dal Consiglio dei Ministri. Sentiamo un passaggio di Renzi. Abbiamo 25 tweet di buone notizie. Ho dato la password a Bellacci, quindi quando cortesemente me li metta anche sul mio profilo Twitter, così che viene la prima legge di stabilità spiegata via Twitter nella storia. Anche se noi preferiamo che questa legge di stabilità ce la spieghi un po' meglio Alberto Rioli, vice direttore del Sole 24 Ore. Alberto? Ciao, buonasera a tutti. Ciao, non ti chiedo, tu hai fatto il militare? No. Non hai fatto il militare? No, non l'ho fatto. Neanche a Cuneo come Totò? No, niente, no, proprio. A me no. Ah, vabbè, niente. Allora sei favorevole al contrario, non ti chiedo niente. Sei favorevole al contrario a questa legge di stabilità, perché naturalmente Renzi è soddisfatto, lo abbiamo sentito, poi sentiremo altri passaggi della conferenza stampa di oggi, ci sono le critiche dei sindacati e non solo. E quali sono le principali novità? Intanto sicuramente la cancellazione delle tasse sulla prima casa, poi farà molto discutere questa cosa del canone RAI in bolletta, non ne avevamo già parlato, possibile. Certo, forse è una delle notizie più popolari, certo, farà molto discutere, sarà anche molto difficile, confermo quello che già dissi allora, l'applicazione concreta di questo tipo di novità, perché appunto nella bolletta dell'Enel non sarà così semplice inserire il canone RAI e poterlo esigere. D'altro canto lo stesso Renzi in conferenza stampa ha parlato di bollettazione e forse farebbe anche pensare magari a una cosa un po' più ad hoc. Comunque lo vedremo. Fra l'altro c'è Mario che scrive questo messaggio, il 349-238-6666, e dice: ma io ho due case, devo pagare il canone in tutte e due, perché se arriva la bolletta in tutte e due le case, no? Eh beh sì, d'altro canto dovrebbe comunque pagarlo tutte in giusto, ogni caso, perché dovrebbe avere due apparecchi, diciamo, due apparecchi quindi... TV. Ma dimmi una cosa, Alberto, non so, a me ancora non è chiara questa cosa, se anche vale per i computer, se uno si guarda i programmi sui computer o su altri tipi di apparecchi tecnologici, perché... No, questo no, per ora non è così. No, non è così, c'era stata una discussione che si voleva estenderlo a suo tempo, ma per ora non è così. Per ora, quindi non allarmiamo nessuno, potete tenervi il vostro computer tranquillamente. Invece l'altra cosa molto popolare, ma anche questa però che è stata oggetto di critiche, è l'eliminazione a tutti delle tasse, della tassa sulla prima casa, no? Sì, certo, questo è il segnale anticiclico, diciamo così, che Renzi vuole dare, di togliere IMU e tasse sulla prima casa. È sicuramente molto importante, perché indubbiamente avrà un effetto di abbattimento della pressione fiscale ed è una riga di matita su un capitolo doloroso, diciamo così, nella storia fiscale del nostro paese, visto che è stata oggetto di vai e vieni continui e di continui disorientamenti anche per il contribuente. Indubbiamente questo forse è il piatto forte da un punto di vista del valore espansivo di questa manovra, che lasciamelo dire, effettivamente è importante, perché a questo cambio di atteggiamento appunto insiste molto sull'idea espansiva delle misure di politica economica, sull'idea della crescita, sull'idea della fiducia, dell'ottimismo e quant'altro. A questo proposito, la sentiamo un altro passaggio proprio a fagiolo di Renzi. Fino a qualche anno fa il mondo tirava, l'Italia arrancava. Adesso l'Italia è ripartita, ma il mondo non si sente benissimo, mettiamola così. Sappiamo che cosa accadrà nei prossimi mesi, le previsioni sui paesi emergenti, sul rallentamento dell'economia nell'Eurozona. Il punto è che va sottolineato con forza: l'Italia è tornata alla crescita. Lo slogan di questa legge di stabilità è l'Italia col segno più. L'Italia col segno più, quindi come dicevi tu, tornata alla crescita. Ma adesso poi il piatto forte di Renzi, le tasse giù. Scherzando con Piercarlo stanotte, ieri sera, ci domandavamo, quando si presentava la finanziaria c'era sempre la domanda di dire dove ci fregano. Il cittadino e anche i giornalisti avevano il compito, lo fanno anche adesso giustamente per deontologia professionale, ma il cittadino si diceva dov'è la fregatura quest'anno, dov'è che ci alzano le tasse. Quest'anno, ed è io credo una caratteristica, una cifra identitaria di questo governo, non soltanto le tasse non aumentano ma vanno giù. Però prima sentivamo Alberto Rioli, sentivamo sia Brunetta di Forza Italia che un esponente del Movimento 5 Stelle che dicevano sì, ma le coperture economiche, finanziarie, le risorse finanziarie non ha detto nel dettaglio dove le prenderà. Effetti questo forse è il punto un po' più debole, nel senso che è una manovra per così dire un po' corsara e veloce da un punto di vista delle coperture e da respiro un po' corto, perché affastella in ragione d'anno molte una tantum, molte politiche in deficit e non ha messo in cantiere, diciamo così, tagli pluriennali che possano consentire di avere dei risultati anche sul medio periodo. Ecco, se per caso la congiuntura internazionale dell'economia andasse male nei prossimi mesi, effettivamente chi si trovasse a dover rifare la legge di stabilità per il 2017 sarebbe un po' in difficoltà. Ma entriamo nel dettaglio: le coperture vengono sostanzialmente da 14,6 miliardi che ci deve dare l'Europa con la cosiddetta flessibilità. La flessibilità declinata in almeno tre diverse modalità: quella dovuta alla crescita, quella come impatto delle riforme, e l'altra tutta da negoziare che vale 3 miliardi legata all'emergenza migranti che il governo vorrebbe stornare per far fronte alla promessa di abbattimento dell'IRES per le imprese fin da quest'anno, che invece non avendo questi 3 miliardi ancora in tasca è stata posticipata al 2017. Per il resto ci sono un paio di miliardi che sono attesi dall'operazione di rientro dei capitali, quella che in gergo si chiama voluntary disclosure, che probabilmente ne potrebbe anche portare ancora di più, perché le domande sono molte più di quelle che si aspettavano. 1 miliardo viene dalla tassa sui giochi, 2,8 miliardi sono varie limature, tagli tra regioni e capitoli di bilancio vari, sostanzialmente la sanità, e 5,8 di tagli effettivi laddove vuol dire 1,5 miliardi per i ministeri e il resto sono anche questioni legate alla razionalizzazione degli acquisti, la centralizzazione, la famosa centrale unica degli acquisti della pubblica amministrazione, che dovrebbe impedire di far costare la famosa siringa 100 a Bolzano e 200 o 300 a Siracusa e quant'altro. Ecco, questo più o meno è l'ossatura della manovra, però si capisce che è una manovra fatta tutta con la benevolenza dell'Europa, confidando su un rientro dei capitali che ci sarà solo quest'anno, con una tassa sui giochi che non si sa poi se il prossimo anno potrà dare la stessa cosa, con insomma un capitolo di tagli che è risultato molto meno ambizioso di come in un primo tempo si era detto. La spending review era partita addirittura quando il commissario era Cottarelli con un'ambizione da 27-30 miliardi, poi è scesa regnante Gutgeld a 10 e adesso è arrivata più o meno intorno ai 5, di cui due un po' fanno parte della sanità, che non è un vero e proprio taglio ma è un mancato aumento. Quindi è quello il capitolo che è ovviamente quello politicamente più doloroso, su cui bisognerà ancora lavorare molto. Senti, invece i sindacati, la CISL con la segretaria generale Furlan ha detto siamo soddisfatti ma ci riserviamo di vedere i testi, credo che manchi fondamentalmente una cosa importante, la flessibilità in uscita per i lavori e le lavoratrici nell'accesso alla pensione. Abbiamo sentito ieri o l'altro ieri questa proposta di part time dai 63 anni, no? E poi dice bisogna trovare le risorse per i contratti del pubblico impiego, mentre la CGIL dice una manovra con quattro segni meno e elenca una serie di cose, dice questa significa questa manovra meno libertà per i lavoratori a partire dal fatto che sulle pensioni non c'è flessibilità, meno lotta all'evasione con la soglia che sale a 3.000 euro che si possono pagare in contanti, meno sanità e meno lavoro e salario. Ma insomma è chiaro che qui siamo entrati in una fase tutta propagandistica, diciamo così, di dinamica sindacale schietta, per così dire. Ci sono tante cose che in realtà possono far comodo anche ai lavoratori, non c'è dubbio, perché comunque ci sono 600 milioni per i contratti pubblici, c'è questa forma di flessibilità sul part-time che potrà godere di una contribuzione figurativa che viene pagata dallo Stato per il 50%, e quindi per chi decide di andare in part-time gli vengono versati i contributi al 100%, come se lavorasse a tempo pieno, quindi mi sembra un esperimento interessante questo, tutto da capire poi nella sua articolazione reale. Per il resto, come ho detto prima, i tagli sono pochi, quindi per chi difende effettivamente gli interessi dei lavoratori, qualora dovessero essere colpiti dai tagli, dovrebbe essere una buona notizia, ecco, diciamo così. Poi per quanto riguarda sulla flessibilità delle pensioni, non è un capitolo da affrontare a cuor leggero con poche risorse, perché è una cosa che costa molto, va calibrata al meglio, altrimenti ti ritrovi con i soliti problemi, con il solito problema di una nuova tranche di esodati, qualcosa del genere, insomma non è un rischio da correre adesso. Grazie Alberto Urioli. Grazie a voi. Buon lavoro, ciao. E la finanziaria approvata appunto dal Consiglio dei Ministri, di cui abbiamo appena parlato, è stata trasmessa alla Commissione Europea, che ha un mese di tempo per esprimere il suo giudizio. Proprio oggi è iniziato a Bruxelles, vi dicevo, questo vertice di due giorni, all'ordine del giorno soprattutto il tema dell'immigrazione. C'è per noi a Bruxelles Sergio Nava. Ciao Sergio. Ciao Roberta. Quindi il tema dell'immigrazione, si è anche accennato alla manovra italiana? No? Beh sì, ma non all'interno del vertice, questo chiariamolo, perché ne ha parlato il vicepresidente della Commissione Dombrovskis rispondendo a una domanda in una conferenza stampa, in una riunione pre-vertice, e Dombrovskis di fatto ha ribadito in modo anche un po' bacchettando l'Italia, questo sì, quello che la Commissione ormai dice da tempo, cioè che le tasse vanno alleggerite sul lavoro e spostate su consumo e proprietà. Questo non lo dice da oggi, non lo dice da un mese, lo dice da anni. E quello che ha aggiunto Dombrovskis è che ha detto, da quello che capiamo, la manovra italiana va contro questa nostra indicazione. Si è limitato a dire quello, aggiungendo ne parleremo poi con l'Italia. Sottolineiamo anche una cosa, che all'interno della triade di commissari economici costituiti a Juncker, Dombrovskis è quello considerato un po' più falco verso i paesi del sud Europa, quindi ci sta anche in qualche modo questa presa di posizione un po' piccata, anche se interlocutoria chiaramente. Sergio, però il tema centrale oggi era quello sempre dell'immigrazione, no? Ormai da tempo. Sì, lo è, era di fatto l'unico tema forte rimasto sul piatto, perché altri temi forti sono già stati abbastanza rinviati a dicembre. E quello che sta emergendo nelle ultime ore è che il punto sta diventando il rapporto con la Turchia. Si sapeva che sarebbe stato poi al centro di questa giornata. Quello che sta emergendo è che la Commissione, o meglio il team inviato ad Ankara in queste ore della Commissione, capeggiato dal vicepresidente della Commissione Timmermans, avrebbe chiuso un accordo, anche ha chiuso un accordo con il governo turco, secondo il quale si verrebbero dati 3 miliardi alla Turchia, oltre a una liberalizzazione dei visti dal prossimo anno e anche l'apertura di 5 nuovi capitoli all'interno del processo di adesione della Turchia all'Unione Europea. In cambio la Turchia dovrebbe aiutare, cooperare maggiormente nella sorveglianza delle frontiere con l'Europa, dovrebbe accettare il ricollocamento di profughi passati dalla Turchia e poi arrivati in Europa e quindi che tornerebbero in Turchia, dovrebbe anche facilitare l'inserimento dei profughi, soprattutto siriani, attualmente distante in Turchia. Ricordiamo che la Turchia ha oltre 2 milioni di profughi siriani nel sud del paese, quindi questa è un po' la proposta che è sul tavolo, perché la Commissione europea l'ha di fatto siglata ad Ankara. Il problema è che è molto generosa, secondo alcuni leader, 3 miliardi effettivamente sono tanti e in più appunto sono forti concessioni a Erdogan che è un leader poi anche abbastanza controverso. Quindi quello che sta succedendo adesso, finita la sessione di lavoro, ora i leader sono a cena, si sta prendendo in considerazione questa proposta e probabilmente però ci saranno molte negoziazioni, perché diversi paesi non sono ovviamente contenti di fare grosse concessioni a Erdogan, quindi vedremo un po' come va a finire, anche perché potrebbe finire proprio stasera, anzi stanotte, però il vertice. Quindi ci farai sapere domani a questo punto, Sergio, ovviamente, perché sei sempre lì a Bruxelles. Grazie Sergio Nava, buon lavoro. Grazie Bruxelles. A voi. Ciao Sergio. Ciao. Adesso, prima di lasciarci per questa breve pausa di ricreazione, ancora i vostri messaggi sulla leva obbligatoria che Salvini propone di reintrodurre, sia sulla pagina Facebook di Effetto Notte, i vostri pareri sia al 349-238-6666, il numero per i messaggi. Dice Patrizio da Pistoia, pienamente favorevole alla leva. Corrado da Verano Brianza, leva obbligatoria sì, 12 mesi dall'altra parte d'Italia rispetto alla residenza, è stato uno dei periodi più belli della mia vita, pensate, qualcuno lo ricordo terribile, altri ricordo bellissimo. Poi favorevole alla reintroduzione della leva, sembrava togliesse tempo indispensabile all'ingresso al mondo del lavoro, ma ora che i giovani non riescono a trovare un lavoro riterrei dignitoso un servizio di leva invece di una frustrazione senza fine, dice un altro ascoltatore. Poi Luigi da Padova, reintroduzione della leva obbligatoria, povero Salvini non sa più cosa inventarsi per far dimenticare le mangerie della Lega, vogliamo tornare al nonnismo e ai suicidi tra le reclute. A dopo. I centri ottici Green Vision ti aspettano per il controllo gratuito della tua efficienza visiva. Greenvision.it vi presenta. La taxi è andata e non ripassa più, il treno delle 20 è giunto qui alle 3. I taccuini del giubileo, l'inchiesta di Mix 24 domani alle 9 su Radio 24. Sequestrano, sono qui al giubileo con i parenti miei. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Roberta Giordano sempre con voi e vedo continuamente arrivare i vostri messaggi sia sulla pagina Facebook di Effetto Notte sia al 349-238-6666 per i vostri messaggi a proposito dell'input che vi ho lanciato questa sera, la proposta di Salvini di reintrodurre la leva obbligatoria. Siete favorevoli o no? Sergio da Milano, anzi no, non è Sergio questo, è Emanuele, scusate. Il servizio militare dice è stato l'anno più importante della mia formazione, sono laureato con lode e tesi pubblicata. Viva la leva, viva l'esercito, dice con entusiasmo Emanuele. Poi Luciano da Cesena, tanto per capire quanto sono differenti le esperienze di vita, dice la leva è un anno gettato dove vedi il peggio del peggio, dalla droga al nonnismo utile solo a sbattere i giovani in qualche emergenza. Sono leghista, dice da sempre, ma stavolta mi fanno cadere le eccetera eccetera eccetera. Adesso vi ricordo le notizie più importanti della giornata, poi passiamo a un altro argomento. Legge di stabilità varata dal Consiglio dei Ministri, via le tasse sulla prima casa, lo slogan di Renzi è l'Italia con segno più. Il maltempo che non dà tregua, altri due morti nel Beneventano, in complesso nelle 24 ore sono morte 5 persone, interviene l'esercito, disagi al centro-sud. L'Europa che affronta il nodo dei migranti in questi due giorni di vertice europeo di cui abbiamo appena parlato, e poi uno studente in gita muore a Milano caduto dalla finestra dell'hotel per un incidente, così una vicenda analoga a quello quello che successe 5 mesi fa sempre a Milano. E poi dietro fronte di Obama sull'Afghanistan, 5.500 soldati resteranno anche dopo il 2016. E poi a proposito dello scandalo Volkswagen, indagati a Verona i vertici italiani, perquisite le sedi. Parliamo di New York, siamo abituati a vedere tante facce di New York, forse anche il simbolo delle disuguaglianze, nel senso che da una parte le immagini dei grattacieli, della vita scintillante di tante persone che hanno molti soldi, che vivono bene, dall'altra i barboni con i loro giacigli di cartone, ma anche tante famiglie, soprattutto afroamericane, poverissime. Beh, c'è una ricerca che hanno fatto le stesse autorità di New York, secondo la quale gli abitanti di alcuni quartieri più poveri di Brooklyn possono vivere sino a 11 anni in meno di quelli che abitano nei quartieri più ricchi di Manhattan. Lo rivela una ricerca svolta dalla metropoli facendo riferimento ai dati statistici raccolti nell'ultimo decennio. Per fare un esempio, il quartiere di Brownsville, uno dei più poveri, col 76% di popolazione afroamericana, appunto, ha un'aspettativa di vita di 74,1 anni, la più bassa della città. Spostandosi invece ai Financial District, il quartiere con l'aspettativa di vita più alta di tutta New York, si arriva a una media di 85,4 anni. Ne parliamo col professor Stefano Zamagni, docente di economia civile e sistemi di welfare all'Università di Bologna. Buonasera professore. Buonasera a tutti voi. Sembrano quasi dei dati, cosa vogliamo dire, tristemente banali questi? Dunque, no, la notizia non mi stupisce, perché la scienza economica e gli economisti in generale, salvo alcune eccezioni, si sono sempre occupati della produzione del reddito, della ricchezza, e non anche della sua distribuzione. E questo sulla base di un presupposto, peraltro mai dimostrato, secondo cui una marea che sale solleva tutte le barche. Come dire, l'importante è allargare la torta che rappresenta la ricchezza o il reddito, perché poi ce ne sarà per tutto. Oggi noi sappiamo, oggi per significare l'ultimo paio di decenni, che non è affatto così. Perché? Perché il mercato, l'economia di mercato nell'epoca della globalizzazione e soprattutto della finanziarizzazione non è più in grado di redistribuire quanto è stato prodotto secondo un qualche criterio di equità. Ecco perché in questi ultimi anni si susseguono a getto continuo libri di premi Nobel dell'economia e di economisti anche direi famosi. Infatti, a questo proposito, mi perdoni professor Zamagni, ricordo che il Nobel per l'economia, che è stato assegnato pochi giorni fa, è andato ad Angus Deaton, che è un economista scozzese, per i suoi studi su consumi, povertà e welfare. Ricordo l'ultimo libro che ha pubblicato è La grande fuga, salute, ricchezza e origini delle disuguaglianze. Sì. Questo è un altro segnale. Se l'Accademia delle Scienze affida il premio Nobel, è una scelta di campo, starei per dire, che dimostra esattamente che è ormai diventato urgente preoccuparsi della distribuzione. Il dato di New York è interessante inoltre perché ci fa capire che i poveri non stanno soltanto su coloro che devono stringere la cintura, come si suol dire, ma che la povertà relativa incide sulle condizioni di vita. Uno scarto di 11 anni è una cosa quasi scandalosa in una città come New York, perché qui non si fa il confronto tra Stati Uniti e un paese dell'Africa subsahariana. E allora questo vuol dire che oggi la distribuzione del reddito, quando è iniqua, incide sia sulle chance di vita, ma anche sulle possibilità lavorative, perché un livello di povertà generano malnutrizione, e la malnutrizione ce ne danno ovviamente conto gli esperti, soprattutto di alimentazione, non consente uno sviluppo adeguato dei neuroni, per cui uno non sviluppa quei talenti che potrebbe avere. Ecco perché oggi è diventato ormai un coro. Ovviamente in tutto questo l'economia, gli scienziati economici hanno una certa responsabilità, ovviamente in buona fede, io sono certo, però non si può continuare a fingere di far credere alla gente che perché la marea continua a sollevare, ma solleva solo le grosse barche. Questo è il punto, le altre restano sommerse, per stare alla famosa metafora. Purtroppo pensiamo che quei due quartieri di cui parlavo sono a meno di 12 km di distanza, quindi questo è ancora più impressionante. Grazie professor Stefano Zamagni. Grazie a voi. Grazie, buona serata. Arrivederci. Grazie. Fiabilità. Autostrada Pedemontana, la prima e unica senza caselli. Scoprila su pedemontana.com. Vi presenta Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Oh, vediamo ancora un messaggio tra i tanti sulla pagina Facebook di Effetto Notte a proposito appunto della proposta di reintrodurre da parte di Salvini la lega obbligatoria. Mattia: se l'onore e la buona reputazione acquistata con l'onestà e la coerenza ai propri principi è propaganda pura che certa classe politica pensi di poter infondere l'onore tramite la naia. Vi ricordo le notizie più importanti, che sono appunto la legge di stabilità che è stata varata dal governo, una manovra da 27 miliardi, via le tasse sulla prima casa, canone TV da 100 euro nella bolletta elettrica. Poi sulle unioni civili la ministra Boschi annuncia slittano a gennaio. Il maltempo, nubifragi e frane al sud, complessivamente 5 vittime in 24 ore. Il vertice di due giorni a Bruxelles con al centro l'emergenza migranti. E poi la tragedia a Milano: uno studente di 17 anni precipita dall'hotel in gita e muore, forse un malore, ha confermato Radio 24 il PM. Qualità di vita e longevità, abbiamo appena sentito di questa ricerca impressionante sulla città di New York. Europa 24. Alla vigilia della giornata mondiale dell'alimentazione, il comitato scientifico costituito per Expo 2015 dall'Unione Europea presenta le sue raccomandazioni per la ricerca e l'innovazione nel campo della sicurezza alimentare. A due settimane dalla fine di Expo 2015, l'Unione Europea chiude il programma scientifico portato avanti in questi sei mesi. Dopo oltre 200 conferenze sul tema della sicurezza alimentare globale, il comitato scientifico costituito dall'Unione presenta alle istituzioni europee le sue conclusioni. La giornata di oggi è stata incentrata quindi sui grandi temi dell'esposizione universale, in primis l'agricoltura e il cibo. Paolo De Castro, presidente della Commissione Agricoltura e Sviluppo Rurale. Il tema è ricerca e innovazione soprattutto. Se vogliamo produrre di più con meno risorse, produrre di più inquinando meno, produrre di più ma mantenere alta la fertilità dei terreni, e come si fa a essere sostenibili e intensivi? Però la grande sfida è quella, cioè chiedere di più alle nostre risorse naturali scarse a disposizione, ma nello stesso tempo cercando di gestirle in maniera sostenibile. Le quattro raccomandazioni conclusive portano verso la sostenibilità dal punto di vista etico, economico e sociale. Ricerca, innovazione, collaborazione tra istituzioni, produttori e consumatori e un tavolo internazionale per la sicurezza alimentare. Europe would make an impact in the future of global food security. Per Franz Fischler, presidente del comitato scientifico, occorre un impegno forte da parte dei policy makers, cosa che è stata dimostrata durante i sei mesi di Expo. L'Unione Europea, ha continuato Fischler, deve proseguire il messaggio dell'esposizione universale e contribuire a debellare la fame nel mondo. Proprio oggi la Commissione Europea ha pubblicato i risultati del primo Eurobarometro sullo spreco del cibo, che dimostrano come i consumatori europei non siano sufficientemente informati. Nobody likes to be coordinated. Why we have some crisis related? Nessuno ama essere coordinato, così il commissario europeo per la sanità Vytenis Andriukaitis, che ha spiegato le difficoltà di trasformare le linee guida per la donazione del cibo in azioni concrete. Per Andriukaitis gli OGM e le nuove tecnologie sono fondamentali per ridurre lo spreco delle risorse alimentari. Alla giornata hanno partecipato poi, oltre ad Andriukaitis, altri tre commissari europei: Phil Hogan per l'agricoltura, Carlos Medas per la scienza e l'innovazione e Neven Mimica per lo sviluppo e l'organizzazione. Inspires young people to find solutions to challenges such as food loss and waste. Aiutiamo i giovani a trovare nuove soluzioni contro lo spreco del cibo. Così, in un videomessaggio, il segretario generale delle Nazioni Unite Ban Ki-moon, che domani sarà ad Expo per la Giornata Mondiale dell'Alimentazione. Of World Food Day. Federica Frola, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Europa 24. In collaborazione con Euronet Plus. Bene, tra poco parleremo dello sciopero della Serie A di calcio femminile che farà saltare la prima giornata del campionato sabato, probabilmente anche domenica. Ne parleremo tra pochissimo. Raggiungiamo Katia Serra, rappresentante dell'AIC, l'associazione di calciatori e calciatrici. Prima però ancora qualche secondo per leggere i vostri messaggi, tantissimi, tra il 349-238-6666, la pagina Facebook di Effetto Notte a proposito della proposta di Salvini di reintrodurre la leva obbligatoria, dice, per insegnare l'onore ai giovani. Giovanni da Torino dice: meglio la leva che un esercito di volontari militaristi fanatici. Vela dice assolutamente contrario, l'unica cosa che può insegnare la vita è la disciplina, ma non serve fare il soldato, basterebbe che i genitori insegnanti insistessero sull'educazione. I militari sono considerati dei numeri obbligati a prendere ordini, l'unica cosa che possono pensare è il modo migliore per eseguirli. Mattia, se l'onore è la buona reputazione acquistata con l'onestà e la coerenza ai propri principi, è propaganda pura che certa classe politica pensi di poter infondere l'onore tramite la naia. Fabrizio, concretamente avete un'idea del costo di gestione di un esercito di leva? Credo che lo stanziamento di risorse pubbliche verso la difesa sarebbe indigesto anche a molti che ora si dicono favorevoli. Serra, allora, come rappresentante delle calciatrici dell'AIC, Associazione Italiani Calciatori, perché dentro ci sono anche le calciatrici che però sono nel settore dilettanti, quindi sabato salta la Serie A femminile, sabato e domenica, giornata di sciopero, perché? Perché ci sono delle rivendicazioni da parte vostra, quali sono le questioni più importanti? Le questioni più importanti sono una rivendicazione sui diritti, ricordiamo che siamo ancora dilettanti in tutto e per tutto, questo significa... Cioè le calciatrici, le squadre femminili di Serie A sono ancora formate da dilettanti, non professionisti come nel caso maschile, quindi non vivete di calcio, questa è la questione. Esatto, e soprattutto si arriva a un certo punto della propria vita ad un bivio dove tra giocare e lavorare si sceglie ancora il lavoro, perché lì ci sono, oltre che possibilità di viverci, anche le garanzie legate alla prospettiva, quindi previdenza, diritto alla maternità, assicurazioni, tutto ciò insomma che un regolare contratto di lavoro permette. Quindi oltre a giocare voi dovete anche lavorare, a differenza degli uomini. Ma questa polemica risale un po' anche a quella dei mesi scorsi con Belloli, che aveva detto che diamo soldi a queste quattro lesbiche e poi si è dovuto dimettere, no? C'entra allora, diciamo, cioè, investimenti lì, chiedete? No, parte da lì per una questione di rispetto, perché naturalmente ancora essere legato a uno stereotipo che non contraddistingue la categoria è decisamente di basso profilo parlare di queste cose, non capire invece tutto quello che c'è attorno a questa attività. Detto questo, è naturale che nella rivendicazione, siccome vogliamo lavorare per il sistema e non solo per la categoria, si chiede anche alla federazione di investire concretamente sul settore, non solo con promesse ma con certezze scritte, e appunto il non partire nasce dal fatto che dal 6 ottobre dovevano essere scritti tutti gli accordi presi, ad oggi invece ancora questo non è successo, e allora il tempo è scaduto e bisogna purtroppo a malincuore arrivare a questa scelta. Speriamo che quindi Tavecchio, presidente della FIGC, come aveva detto, no, non ci sono problemi, riusciremo a trovare una mediazione, e si riesca a trovarla questa mediazione. Intanto grazie Katia Serra, grazie, buona continuazione. Grazie a voi e buona serata. Buona serata. Ecco, allora abbiamo ancora un po' di tempo per i messaggi. Silvio da Salerno, a proposito sempre di questa proposta di Salvini di reintrodurre la leva obbligatoria, vedo continuano i messaggi sulla pagina Facebook di Effetto Notte, molti anche al 349-238-6666, dice Silvio, Salvini invece di voler far credere uomo duro con la leva militare si dimezzi lo stipendio. Poi Enzo 64, leva obbligatoria più un anno per stranieri, in cambio diamo la cittadinanza italiana, propone questo Enzo. Poi Leo, ma non ci sono le coperture per la leva obbligatoria. Poi i militari devono essere solo professionisti come ora, vedi gli Stati Uniti. Riccardo, perché dare spazio alle sciocchezze di Salvini quando si possono ignorare? La leva obbligatoria è insensata, meglio invece il servizio civile obbligatorio per tutti. E poi un altro messaggio, a chi dice che il servizio militare è un invito al suicidio delle reclute, rispondo che anche nelle scuole tra gli adolescenti ci sono suicidi, ma non per questo chiudiamo le scuole. Io ho fatto la leva ed è stato un periodo formativo, è interessante vedere come molti sono favorevoli, lo ritengono un periodo bello, magari appunto anche formativo, come dice questo ascoltatore, altri un incubo oppure una cosa inutile. Un altro sms, invece della leva obbligatoria, perché non fanno la chiamata obbligatoria al lavoro? Torno sui messaggi della pagina Facebook di Effetto Notte. Paolo, io la renderei obbligatoria anche per le donne, magari solo 6 mesi, ma molto molto utile, e mai dopo l'università la leva fatta a 30 anni, dice, è un delirio. Cristiano, propaganda insensata che ovviamente non avrà esito. Poi Giovanni, io ho fatto 15 mesi di naia, una boiata pazzesca, dice, buonanotte. E ancora ora vediamo, sono tantissimi i vostri messaggi. Giuseppe, con tutte le missioni che ci sono, lei metterebbe la sua vita nelle mani di un commilitone di leva, un dilettante allo sbaraglio, i morti trasporterebbero i feriti. Bene, direi che a questo punto ci possiamo lasciare, tanti veramente i vostri messaggi, voi continuate anche sulla pagina Facebook di Effetto Notte, che lì per voi aderite come sempre senza indugio. Io ritorno alle 22.